Incontri di Gianfranco Fabi. Questo brano tradizionale medievale persiano dell'Afghanistan, Lahidijan, entriamo nell'atmosfera dell'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Padre Paolo Nicelli. Buonasera a voi tutti. Padre Paolo Nicelli è missionario del Pontificio Istituto Missione Estere, ha una lunga esperienza all'estero, prima negli Stati Uniti, poi nelle Filippine. Ora è a Milano, insegna all'Università Ambrosiana, alla Biblioteca Ambrosiana, mi corregga se sbaglio. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose a Milano e sì. Poi sono dottore della Biblioteca Ambrosiana. Dottore della Biblioteca Ambrosiana. Quindi è anche specializzato poi in islamista. In islamologia. Islamologia. E studi arabi e islamici in generale. Ecco, parlare di Islam in questo periodo è... forse purtroppo, però è di attualità, è una realtà con cui abbiamo a che fare, con cui dobbiamo fare i conti. Ogni giorno sentiamo appunto le problematiche legate all'Islam e alla sua espansione. Non vogliamo parlare di quello che accade giorno per giorno, vogliamo parlare un po' della natura dell'Islam, della natura di questa religione che non è solo una religione. Ecco, forse questo è il punto principale, una religione che è qualcosa di più e di diverso. Esattamente, cioè l'Islam indubbiamente non è solo una religione, ma è una religione che ha fondato una civiltà, una società, uno Stato, come i musulmani amano chiamare, più che impero lo chiamano Stato islamico, perché nasce proprio da quell'esperienza originaria che è avvenuta appunto a Yathrib, l'attuale Medina, quando appunto a partire dal 622 sostanzialmente i musulmani si sono trasferiti dalla Mecca proprio per via di contrasti. Che cosa ha detto Maometto per iniziare questa avventura? Beh, Maometto indubbiamente ha introdotto nel mondo arabo musulmano, arabo preislamico, in maniera molto forte un'idea importante, che era l'idea dell'unico Dio sostanzialmente. Già questa idea era presente in quel contesto, predicata dalle comunità ebraiche presenti appunto nella penisola arabica e dai monaci nestoriani itineranti, no? Che viaggiavano nelle oasi e predicavano il monoteismo cristiano in questo senso, quindi monoteismo ebraico, monoteismo cristiano, e Maometto appunto, essendo parte di quel contesto religioso e culturale, ha recepito l'importanza di questa predicazione e l'ha predicata. L'ha fatta propria in un certo senso. L'ha fatta propria, sì. Poi ovviamente i musulmani credono nel fatto di una rivelazione coranica che sostiene questo percorso. Ecco, però il mondo musulmano è un mondo mai variegato, ovviamente. Fatto di più di divisioni che non di unità. E quali possono essere le grandi famiglie musulmane? Ma diciamo che le principali sono due fondamentalmente, quella sunnita e quella sciita. La maggior parte del mondo musulmano è sunnita, quindi legato molto alla tradizione, il Corano, gli Ahadith, che sono i detti del profeta, dei compagni del profeta appunto, e quindi legato a loro sta un po' quello che è l'inizio della comunità musulmana in quanto tale. Gli sciiti, che sono una minoranza all'interno dell'Islam, localizzabili nel contesto iraniano, persiano e poi iracheno, sappiamo appunto, no, della presenza musulmana sciita in Iraq e l'importanza che ha questa presenza in quel contesto. Ecco, questi gli sciiti appunto già criticano un po' fin dall'inizio il mondo sunnita intorno all'idea proprio di califfato così attuale oggi, certo. E loro lo criticano perché indicano nel profeta colui che non voleva istituire il califfato, ma semplicemente indicare qualcuno che, in Abu Bakr, qualcuno che amministrasse dopo di lui lo Stato islamico cosiddetto. Ecco, quindi più integralisti in un certo senso i sunniti, più laici gli sciiti? Ma sa, questi sono termini che usiamo oggi noi, no? Sì, anche per capire un po' meglio con i nostri schemi mentali. Esattamente. Poi in fondo, che forse non sono corretti per valutare questa realtà. Esattamente, ma lei probabilmente si ricorderà dei fatti del 79, no? Quando c'è stato l'attacco all'ambasciata statunitense a Teheran, tutta la crisi degli ostaggi, certo, il tentativo di liberarli, poi lo smistamento di questi ostaggi in giro per l'Iran per cercare di non farli individuare. A quel tempo si diceva che gli sciiti erano più integralisti dei sunniti. Adesso siamo in una posizione un po' opposta, col califfato di al-Baghdadi piuttosto che... L'integralismo è un'esperienza negativa che si insinua all'interno dell'Islam, laddove l'Islam viene ridotto a una forma ideologica di non più religione, ma una forma ideologica di tipo politico o di potere in questo senso. Ecco, soprattutto di potere, perché comunque gli stessi fatti iraniani prima del 79, il passaggio dallo Shah di Persia allo Stato islamico è stato un passaggio importante per definire un po' la realtà islamica in quell'area. Ma sì, indubbiamente, cioè è stato un passaggio che ha creato una svolta nel mondo musulmano. Prima avevamo idea di un Islam maggiormente legato alla sunna, cioè quindi al mondo sunnita, di stampo socialista, rivoluzionario e nazionalista, direi non allineato secondo la visione di Nasser, famoso presidente, appunto, esatto, capo egiziano, presidente egiziano. E questa formula si era sviluppata durante, potremmo dire, all'inizio tra le due guerre e poi successivamente la seconda guerra mondiale, e vide proprio in Nasser colui che ereditò un po' questa idea panislamica o questa idea nazionalista anche araba in quanto tale. E in questo senso questo modello è entrato in crisi proprio nel 79, quando un altro modello, quello appunto di Khomeini, si viene a delineare, che è un modello più sempre islamista rivoluzionario di stampo socialista, però più religioso che laico in questo senso, se possiamo usare un termine laico per l'Islam. E in fondo la stessa transizione è avvenuta anche in Turchia, da un modello più laico a un modello più integralista? Ma diciamo che inizialmente in Turchia, con la chiusura del califfato, abbiamo avuto un modello più laico rispetto a uno più religioso. Spariva un impero dopo, certo, la prima guerra mondiale, certo, quindi subentrava un nazionalismo laico di tipo non però socialista, ma più verso i nazionalismi europei di quel tempo, certo, che erano più di destra, diciamo. Attualmente abbiamo, dopo vari anni di laicizzazione della società, abbiamo un ritorno all'esperienza religiosa in quanto tale. Ecco, peraltro il mondo islamico, forse spesso lo si dimentica, non è concentrato nella zona araba. Il maggior nucleo di musulmani sono nelle Filippine, sbaglio? Diciamo che la presenza più grande dei musulmani la troviamo in Asia, e in particolar modo la troviamo in Indonesia. In Indonesia sono circa 250 milioni di abitanti, e il 90% sono musulmani. In Malesia sono circa 25 milioni di abitanti e il 65% sono musulmani. Nelle Filippine, abbiamo una maggioranza cattolica, circa il 90%, poi c'è una presenza protestante piuttosto consistente, e poi abbiamo questo 6% di musulmani che, essendo pure una minoranza, si fanno sentire, però, perché sono abbastanza attivi, diciamo. Beh, lei è stato nelle Filippine per quanti anni? Io sono stato lì per un periodo di 5 anni, ho lavorato giù a Mindanao, nelle zone proprio musulmane, in quello che viene chiamato appunto il dialogo islamo-cristiano, e quindi in un contesto di quel tipo. Ecco, su questa realtà interessante appunto approfondire anche la realtà delle Filippine, il dialogo tra l'Islam e il cristianesimo, quali possibilità ci sono, quali possibilità di dialogo tra la civiltà islamica e quella occidentale che non è magari cristiana, ma ne parliamo nella seconda parte del nostro programma. Ci fermiamo un attimo al nostro incontro con padre Paolo Nicelli. Restate. Incontri. Thank you. ancora con le note di questo brano tradizionale medievale persiano composto da Laili Jan, un afghano. Entriamo ancora una volta nel mondo islamico, in questo complesso mondo, e entriamo con padre Paolo Nicelli, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, che è stato a lungo negli Stati Uniti, ma poi è stato, dicevamo appunto, alla fine della prima parte del nostro incontro nelle Filippine. Ora è a Milano, insegna discipline religiose. Mi ripeta cosa insegna anche per i nostri ascoltatori? Sì, è islamologia e studi arabi in generale. In generale, quindi esperto in islamologia, dicevo, è un'esperienza anche concreta nel vivo delle Filippine, un paese in cui il 90% della popolazione è cattolica, al contrario di altri paesi come l'Indonesia, appunto in Asia, dove la maggioranza dei cittadini e delle persone sono di fede islamica. Ecco, parlavo appunto del dialogo tra cattolici, islamici, tra civiltà asiatica, civiltà occidentale. Quali sono le radici, le difficoltà di questo dialogo? Ma guardi, la realtà dell'Asia è una realtà molto variegata. L'Islam e il cristianesimo sono religioni nuove se le consideriamo nel loro avvento in quel contesto. L'Islam risale intorno al 1300, il cristianesimo, almeno nella zona del sud-est asiatico, intorno al 1520-1521, no? Magellano famoso che arrivò, sì, nelle Filippine e così via. Siamo nel periodo quindi dei conquistadores spagnoli e portoghesi, no? Che la religione era il buddismo, il confucianesimo, l'induismo prima, poi il buddismo soprattutto in Malesia e Indonesia. Nelle Filippine diciamo che si erano già consolidate tradizioni religiose buddiste, e poi dopo sostanzialmente l'Islam ha preso piede e quindi si sono formati tre sultanati. Ecco, quindi nelle Filippine l'Islam ha preso piede, però dopo il paese, la popolazione è diventata cattolica, questo grazie ai missionari. Sì, beh, grazie ai missionari da un punto di vista e grazie ai conquistadores dall'altro, perché l'esperienza di Magellano dura 2 anni, è molto breve, poi un re tribale di nome Lapu-Lapu, appunto nel 1521, combattendo con Magellano, uccide Magellano, no? E Magellano muore appunto nell'isola di Cebu. E successivamente nel 1565 un conquistador di nome Legazpi arrivò con una flotta e quindi con l'esercito, diciamo, sapendo che al sud c'erano i sultanati musulmani che erano abbastanza agguerriti e ben organizzati. Instaurò al sud soltanto dei forti, giusto per controllare il commercio delle spezie, no, che passava da quelle zone. E si rivolse invece verso il nord, quindi l'isola di Luzon, piuttosto che le isole Visayas, che sono al centro, no, dove sono sbarcati. E quindi lì si sviluppò una popolazione più cristiana, cattolica, che poi nel tempo si estese anche al sud. Ecco, ma in questa realtà, una realtà che non fa parlare di sé, vuol dire che ci sono rapporti, forse non di cordialità, ma comunque di convivenza tra queste diverse aree di influenza religiosa. Sì, diciamo che la minoranza musulmana nelle Filippine soffre di un problema grosso, che è quello di identità. Gli spagnoli, quando arrivarono e trovarono i musulmani, li chiamarono Moros, così come li chiamavano a riguardo dei musulmani del Nord Africa, della parte, diciamo, Marocco, e quindi confinanti con la Spagna sostanzialmente. Allora li chiamarono Moros anche lì, e questo è un nome che i musulmani prendono gelosamente, perché indica un po' un'identità più generale dei musulmani. Però anche lì ci sono 38 gruppi tribali musulmani, tutti sunniti, e quindi tra di loro l'essere Moros vuol dire essere musulmano in quanto tale. Però di fatto poi dopo tra di loro ci sono i Maghindanao, i Maranao, gli Yakan e altri gruppi vari che... Ecco, ma che rapporti ci sono all'interno del mondo islamico? All'interno del mondo islamico in generale possiamo dire che ci sono dei rapporti di grande fratellanza a livello universale, la cosiddetta Umma Islamia, no? Questa comunità universale ideale che trova nell'Islam questo collante importante che è il fattore religioso, nel quale identificarsi. Ecco, però non c'è un'autorità carismatica per tutto l'Islam. No, non c'è un'autorità carismatica. No, diciamo che non è una struttura verticistica, è molto orizzontale come struttura. Esistono delle scuole giuridiche di pensiero, nella Sunna ne troviamo quattro fondamentali, le quali sostanzialmente danno un giudizio di merito sul Corano, piuttosto che sui detti del profeta, diciamo sulla Sunna, la tradizione, laddove viene loro richiesto questo tipo di giudizio. Intervento. Faccio un esempio, parliamo adesso del califfato, l'ISIS cosiddetto, sì, Daesh, no? Ecco, come viene detto in arabo, che è un acronimo sostanzialmente. Sul tema del califfato proposto dal Baghdadi c'è stata una discussione, c'è ancora una discussione molto forte sulla autenticità della idea di califfato che al-Baghdadi propone, e oggettivamente dall'Università Al-Azhar, una delle grandi università dell'Islam che comunque fa riferimento per buona parte del mondo sunnita, è venuta una condanna molto specifica di essere non islamica, quindi eretica. Anche per i metodi che usa. A parte i metodi, che quelli fanno più errore probabilmente a noi occidentali, perché certo, con questa capacità, diciamo, mediatica di far rimbalzare questi fatti ci sconvolge. Però al di là di questo è proprio l'idea teologica e giuridica istituzionale del califfato di al-Baghdadi che non si sostiene, perché islamicamente non è fondata, neanche storicamente è fondata, in quanto non può un religioso, cioè un imam, istituire un califfato, certo, ma deve essere la comunità islamica dei saggi, la Giuma Islamia, che con un decreto sostanzialmente nomina un califfo che non ha responsabilità religiose, ma solo amministrativa e istituzionale. Però in Iran è avvenuto qualcosa non di simile, ma di analogo, possiamo dire, con Khomeini. Non è un califfato l'Iran. È uno Stato che ha un suo... È una repubblica, è diverso. Nel senso che nella Scia, che non riconosce il califfato storico, come dicevamo all'inizio, nella Scia l'imam è colui che sostanzialmente non è solo colui che guida la preghiera, come anche nella Sunna, ma è colui che crea un magistero attraverso la sua interpretazione. E quindi l'imam ha una importanza notevole, più forte dal punto di vista dell'autorità religiosa vera e propria, certo, rispetto a quella sunnita. Ecco, ma in prospettiva ci può essere un collegamento tra le diverse anime dell'Islam, anche all'interno dei gruppi sunniti e sciiti, e quindi un allargamento anche del potere di questi gruppi in paesi anche diversi? Si parla appunto dell'Egitto, della Libia, della Tunisia, addirittura del Marocco. C'è la possibilità di una sacra alleanza islamica? Ma questo è il tentativo che si è cercato di fare fin dal panislamismo e poi all'inizio degli anni 70 con la famosa coalizione egiziana, siriana e giordana contro Israele. Pochi anni. È durata pochissimo, hanno, certo, assunto il colore della bandiera sostanzialmente. Io non credo che si riuscirà ad avere un modello panislamico ai tempi moderni. Penso invece che un processo di democratizzazione con i suoi tempi e con i suoi alti e i suoi bassi possa essere introdotto nei paesi musulmani, laddove però i paesi musulmani garantiscono spazi di libertà per la popolazione e soprattutto rispondano a quelle istanze antropologiche che le primavere arabe avevano messo in evidenza. Ecco, spazi di libertà che mi sembra che siano anche abbastanza esigui, soprattutto per una presenza che può essere quella dei missionari, dei cattolici, delle comunità cattoliche. Beh, indubbiamente i paesi musulmani per noi sono paesi molto difficili, devo dirlo, perché se il nostro compito principale è la testimonianza del Vangelo e la proposta evangelica a tutti, ovviamente questo va a cozzare contro una visione invece che è totalmente diversa rispetto al cristianesimo in questo senso, pur legittima, perché l'Islam, certo, è una religione mondiale, ma di fatto non secondo quelle che sono le visioni. Cioè dire che siamo tutti figli di Abramo in fondo è un po' retorica. È una bella frase, interessante, però bisogna poi vedere i distinguo in questo senso, dico. Ecco, Padre Di Celli, nel futuro dove spera di essere mandato, se tornasse a fare il missionario operativo in zone, non dico di guerra, ma in zone, io non glielo auguro, ma in zone sicuramente interessanti. Ma indubbiamente il mondo arabo è un mondo molto interessante, molto importante, anche se tradizionalmente non credo che in quel mondo avverranno i grandi cambiamenti nel mondo musulmano. Io sono più sulla linea di un Islam di frontiera, cioè i cambiamenti avverranno là dove l'Islam si incontrerà o si scontrerà, perché è sempre un dialogo confronto, no? In questo senso, con l'Occidente e con le società dell'estremo oriente dall'altra parte, cioè là dove l'Islam si trova in un contesto di pluralità di religioni e pluralità di culture, è stimolato a ripensare se stesso e a proporsi in maniera diversa. Quindi in gran parte i problemi dell'Islam deve risolverseli da soli. Indubbiamente sì, quello che però io vedo è questo, che i veri cambiamenti avverranno, almeno per noi che siamo qua in Occidente. Allora l'Islam qui in Occidente svilupperà nel tempo, se ovviamente faremo delle scelte giuste dal punto di vista dell'interrelazione tra le comunità e le persone di fedi diverse e l'integrazione delle comunità nel contesto europeo, svilupperà una sua sintesi che proporrà probabilmente anche al mondo di tradizione antica. Quindi potrebbe venire dagli equilibri che si stabiliranno in Europa con i nuovi venuti, con gli immigrati islamici, i nuovi equilibri che si potranno stabilire, potrà essere un esempio anche per il mondo islamico. Indubbiamente, le primavere arabe l'hanno testimoniato sostanzialmente. Questa, e comunque ce la giochiamo qua, diciamoci. Questa è una speranza, che si possa arrivare appunto a una prospettiva di concordia in cui ognuno nel rispetto degli altri possa testimoniare i propri valori, ma soprattutto i valori della persona. Sì, penso di sì. Indubbiamente abbiamo una realtà interessante che sta avvenendo qua in Occidente, si sta creando un nuovo meticciato, cioè una nuova sintesi di culture e di tradizioni religiose che nel rispetto delle loro identità riescono a camminare insieme. Questo è un modello che vogliamo proporre e noi che lavoriamo nell'ambito del dialogo interreligioso qui in Italia come altrove, lavoriamo proprio su questa base. Si tratta appunto di costruire dei ponti e non di erigere dei nuovi steccati, anche del rispetto che si parlava, sì. Prima rispetto e identità, sono due parole chiave in questa prospettiva. Grazie mille, grazie a voi. Padre Nicelli, missionario del PIME, del Pontificio di Missioni Estere, di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato di una realtà complessa come quella dell'Islam, speriamo di aver dato qualche informazione in più rispetto a quanto spesso si dice, si racconta attorno a questi temi. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Lacorte in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.